sulle stelle. Dammi una sigaretta, Copenaghen. Fammi vedere gli occhi, la tua pelle. Esce da scollatura, ferisce mortalmente. Baciami bella bionda sulle stelle. Passano le straniere, contano le fontane, crollano, sono come me. Vengono da tristezze antiche, nei locali cercano forme di paga tu il conto amore, per favore, portami in un albergo per due ore. Profuma di Stoccolma, la schiena tua sfogliata. Amami una volta nella vita. Portano minigonne, palline, sono come me. Dondola la mia vita solita, tutto questo implica una gioventù.